Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Pago per io, t'ho vissuto intensamente, troppo lavoro, il corpo ne risente. Faccio una cosa, ne faccio un'altra, a testa bassa, meglio di niente. Metto le scarpe, la tuta da ginnastica, mi metto a correre, mi giro un po' la testa. Bello vuole apparire un po', deve soffrire. Consolatevi così, se questo weekend vi siete dati da fare un po' di male, rassegnatevi a sopportare, ma se volete farvelo passare, l'800 24 00 24 vi invito a chiamare. Buongiorno da Nicoletta, buongiorno a voi e ai miei due ospiti che sono qua in studio con me, il dottor Franco Confalonieri, medico e responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti, che bella introduzione in rima oggi, davvero notevole, notevole. E abbiamo il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano, autore di un libro che io vi consiglio, che molti voi mi richiedono e che è proprio Tecniche Complementari. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicolette, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, dottor Confalonieri, in estate tutti i nodi vengono al pettine, le gambe, le braccia si scoprono, se ne vedono delle belle, io mi guardo intorno, ma mi sono guardata intorno in questo weekend, ma solo per riferirlo a voi, senza altra cosa, e noto che ci sono molti uomini con spalle e braccia muscolose, gambe esili, che assomigliano un po', ne abbiamo parlato, un po' ai merli, no? È vero, è vero. Poi c'è anche il contrario, però. Esattamente. Ma diciamo che lavorare, cioè fare attività fisica con l'obiettivo generale del benessere, è ovvio, però puntando prevalentemente su attività che portano a uno sviluppo delle braccia piuttosto che a uno sviluppo delle gambe, è una scelta significativa, sia da un punto di vista estetico, da un lato è più facile ed è più rapido potenziare la parte superiore del corpo e le braccia, perché è una muscolatura cosiddetta fasica, cioè una muscolatura che utilizziamo per azioni rapide e brevi, piuttosto che la parte inferiore, però anche gli effetti sono indubbiamente diversi. Diciamo che qualsiasi allenamento fatto prevalentemente a carico delle gambe comporta un impegno cardiovascolare molto più importante di qualsiasi allenamento fatto prevalentemente a carico delle braccia, quindi gli effetti sono, per certo, esempio sul benessere generale e sulla situazione cardiovascolare, sono più rapidi se lavoriamo sulle gambe piuttosto che sulle braccia. Gli effetti sull'estetica sono l'antitesi. Sì. Quindi oggi ci chiediamo un po', voi cosa avete scelto, su cosa lavorate, perché? E poi ci chiediamo, vogliamo anche vorremmo proprio chiederci... i due partiti. Certo, ecco, sai che a me, piace scatenare gli ascoltatori. Voi preferite allenare le braccia o allenate le gambe? Vediamo chi prevale a fine trasmissione, se magari prevalgono quelli che cercano di allenare entrambi. O non allenano né le gambe né le braccia. Quelli sono quelli simpatici a me, ma difficilmente prevarranno. 800 24 00 24, professor Tirelli, il dottor Confalonieri parlava di allenamento chiedendo agli ascoltatori quale parte allenano di più, ma possiamo anche guardarci con un occhio imparziale e renderci conto se che tipo di costituzione abbiamo, se siamo brevilinei o longilinei. Questo cambia un po' anche nell'allenamento, cambia anche il modo in cui noi pratichiamo uno sport. Sì, in generale quello che noi siamo a livello fisico rispecchia un po' quello che a livello funzionale potremmo realizzare da un punto di vista sportivo. Per esempio il nuotatore si ritrova spesso in proporzione con un tronco e delle braccia molto, chiamiamole così per dirla in modo molto semplice, lunghe, piuttosto che con delle gambe, degli arti inferiori più corti. Questo probabilmente anche, tra l'altro, è stato, se ne parlava prima, un po' il problema dei neri, no? Perché questi atleti così forti in tutti gli sport non riescono invece a rendere in modo altrettanto positivo da un punto di vista del nuoto. probabilmente non hanno queste turbine degli arti superiori così sviluppate, così potenti, rispetto invece a quella che è in generale la costituzione dei centroafricani e dei sudafricani, che è di arti inferiori molto più lunghe rispetto a un tronco che ha delle misure, proporzionalmente parlando, un po' più brevi. Comunque poi è chiaro che anche da un punto di vista funzionale e diciamo anche per la preservazione delle articolazioni vi sono dei rapporti importanti da tenere da conto, in quanto per esempio nella muscolatura delle ginocchia noi dovremmo sempre cercare di avere un rapporto tra agonisti e antagonisti, quindi tra quelli che sono dei muscoli motori come può essere per esempio il quadricipite rispetto ai flessori, quelli dietro, ci sono dei rapporti importanti, più o meno è un 3-2, cioè la mia forza muscolare del motore dovrebbe essere di 3 se vado per esempio posso allenarlo o testarlo con dei macchinari isocinetici, e quelli dei freni invece dovrebbero essere 2. In che senso? Nel senso che se io ho veramente un motore di una Ferrari ma poi ho i freni di una piccola utilitaria, chiaramente nei momenti in cui dovrò allentare, frenare il mio movimento, avrò delle difficoltà nel preservare le articolazioni. 800 24 00 24, quindi raccontateci, descrivetevi e cerchiamo di capire se in base alla nostra costituzione c'è un tipo di allenamento che più ci giova. Un'attività sportiva sicuramente in cui siamo più portati proprio per una questione di rapporti, e quale invece dovremmo fare per riequilibrare il tutto, perché a essere benessere vogliamo soprattutto parlare di equilibrio, che è una parola chiave per il nostro benessere. Dottore Confalonieri. Sì, certo. Infatti l'idea di fondo è capire come siamo fatti, quindi se siamo più predisposti per uno sport piuttosto che per l'altro. Da questo punto di vista l'osservazione del professor Tirelli è stata perfetta. Il nuotatore adesso è un po' un esempio di bellezza, ma indubbiamente i nuotatori per caratteristica hanno la gamba corta e il tronco e il braccio lungo. Mm-hmm. E quindi capire come siamo fatti, per cosa siamo predisposti e cosa alleniamo più volentieri o con maggiori risultati, quindi le gambe e le braccia piuttosto che entrambi. E poi aggiungere un'altra domanda: magari adesso si va verso l'estate, c'è più tempo per l'attività fisica, dedichiamo un po' più di tempo all'allenamento, avete più problemi se scegliete attività prevalentemente con un impegno delle braccia, avete più problemi se scegliete attività prevalentemente con un impegno delle gambe? Questo sarebbe anche altrettanto interessante. Per meglio dire, avete più dolori a livello del gomito della spalla o avete più dolori a livello del ginocchio, della caviglia piuttosto che dell'anca? Quindi qual è il settore fra gambe e braccia che potenzialmente vi crea maggiori problemi? Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti. Seneca. Ricordatevela, ne la mettiamo anche sulla pagina di Essere Benessere, 800 24 00 24, se volete parlare della vostra costituzione, brevilinei, longilinei. Se siete degli sportivi, se invece di sport preferite non farlo per una serie di ragioni, i nostri famosi 10.000 passi al giorno però bisogna farli perché il cuore ci guadagna, ma c'è chi per tenere alto e bello il tono muscolare di braccia e di gambe non si dà alla fatica, all'attività sportiva, ma si affida a medici competenti e preparati, si affida quindi in buone mani e utilizza altre strategie. In linea con noi abbiamo il dottor Ivano Lupino, dermatologo plastico a Milano e Catania e responsabile nazionale del Dipartimento Laser dell'ISPLAD. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, oltre alla fatica, all'allenamento, c'è qualcosa che giova al nostro portamento, meglio al tono e alla forma di braccia e di gambe, che gli anni e anche l'inattività mettono un po' in difficoltà. Dove, insomma, non arriva la fatica, arrivano laser, radiofrequenze, LED. Dottore, ce li presenta e ci spiega un po' come funzionano e a chi sono indicati? Sì, ve li presento, sono tre tecnologie all'avanguardia che hanno ormai permeato l'armamentario terapeutico dei dermatologi moderni. Sono tre strutture tecnologiche molto diverse tra di loro. La radiofrequenza è una corrente elettrica ad altissima frequenza, incapace di provocare dei danni se in buone mani, e ha la capacità di stimolare quella proteina del sostentamento della cute che è il collagene, e una trasmissione di calore in profondità che si può utilizzare soprattutto per l'interno delle braccia, dove ha un ottimo risultato sul tono muscolare anche, e l'interno delle cosce, non disdegnando la zona che c'è attorno all'ombelico, di cui spesso le donne si lamentano nella flaccidità. E gli uomini anche, però. E gli uomini la verità, stanno aumentando, non sia di parte, perché stanno frequentando sempre di più i dermatologici. Vogliono stare sempre meglio con se stessi. Certo. Per quanto invece riguarda i LED sono una metodologia nuovissima, sfruttano l'azione a una determinata lunghezza d'onda di una luce LED, quindi che non emette né calore né e non provoca rossori, e vengono utilizzate due lunghezze d'onda specifiche, quella particolarmente indicata per la stimolazione del collagene, che è una luce rossa, molto evidente, che viene veicolata a 630 nanometri, e una luce gialla, che invece viene utilizzata per ridurre il processo di microinfiammazione cutaneo, perché l'invecchiamento della cute, anche del sostentamento, quindi del collagene, inizia con un processo di microinfiammazione. Quindi l'insieme di queste tecnologie, radiofrequenza, LED e i laser non ablativi, cioè che non hanno la capacità di eliminare la superficie cutanea ma di trasmettere calore in profondità, realizzano dei miglioramenti efficaci ed evidenti. Dottor Rupino, per le gambe il punto dolenza è il ginocchio. Sì. C'è qualche trattamento, così rispondiamo anche ai nostri ascoltatori, ascoltatrici. Certo. Devo la dire radiofrequenza che... utilizzata per 6 volte, in ragione di un'applicazione ogni 15 giorni, già dalla terza seduta comincia a determinare una contrazione delle piccole pieghe che si hanno per l'elasticità cutanea. E si agisce soprattutto sulla parte esterna, quindi sulla parte rotulea, meno sulla parte della piega interna, con un miglioramento evidente già dalle prime sedute. Il LED invece viene utilizzato dopo la radiofrequenza per stimolare la superficie della pelle, quindi per migliorare quell'assetto, quella texture cutanea che anche può essere evidente col passare dell'età. Dottor Rupino, però questo non significa così, perché io qua ho il professor Tirelli e il dottor Confalonieri, bisogna dire che tutto questo viene potenziato da un po' di attività fisica. È il fondamento, io mi preme sempre ricordare questo alle mie pazienti, io posso lavorare fino a una certa profondità, l'assetto muscolare tendineo deve essere sempre salvaguardato e quei 10.000 passi sono veramente una legge di natura. Grazie dottor Rupino per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, vi auguro buona estate. Anche a lei. Grazie. Buongiorno a Sergio che ci chiama da Napoli, 800 20 400 24, benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, complimenti per la trasmissione, sempre. Sempre, questo mi piace, questo sempre, mi dà tranquillità, grazie. A prescindere che seguo sempre tutti i suoi consigli per l'alimentazione, per quanto riguarda poi gli allenamenti, come si sottolineava, effettivamente io che faccio attività fisica da un bel po' di anni, cercando di non di privilegiare una parte, ma cercare di creare un'armonia nel corpo, nella figura, più che altro questo interesse. Quando arriva il momento delle gambe, è una cosa proprio da che ci si rinuncia delle volte, si crea una scusa, dico basta. Vado a fare aerobica, vado sul tappeto o qualche altra cosa, perché effettivamente le gambe, quando ci si allena per 2 giorni, fanno un male di un male incredibile. E per quanto io rallenti, non carichi i pesi, cerchi di andare tra cui fare molto preriscaldamento, niente. 2 giorni allora proprio... Sergio quando arriva al punto delle gambe dice non ce la faccio più, getto la spugna. Andiamo a sentire a Gabriella dalla provincia di Milano. Gabriella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ascolto da tantissimo tempo e sono un'ascoltatrice affezionata. Volevo Grazie. Porre la mia domanda per un problema che ho notato ultimamente. Dunque io ho 57 anni, peso 52 kg, alta 1,60. Ho sempre fatto attività fisica, ultimamente ho perso qualcosa tipo 3 kg e ho notato che ho perso volumi nelle cosce. Sì, si svuotano un po' l'interno cosce, Gabriella? Esatto. Cosa posso fare? Questa è una domanda da 1000 punti, ma noi distribuiamo le domande al dottor Confalonieri. Diamo Sergio, che arriva alle gambe e dice: non ce la faccio più. Forse bisognerebbe iniziare dalle gambe, così non allena più le spalle. Questo gli suggerirei io. Ma, dottor Confalonieri? Ma indubbiamente l'allenamento delle gambe è più complesso e soprattutto meno gratificante, perché i risultati si vedono molto di più a medio-lungo termine, anche se poi è un allenamento che, come dicevo prima, sull'efficienza fisica generale, sugli aspetti cardiovascolari, è molto più rapido nel determinare effetti. Quello che potrei dire è: attenzione quando lavoriamo sulle gambe a tutto il lavoro che può comportare dei microtraumi, perché è il microtrauma che poi determina il dolore del giorno dopo di cui si lamentava. Quindi l'acido lattico che canta Elio le storie tese? Eh no. Allora, eccola lì, perché noi abbiamo fatto proprio una puntata. No, ma io non voglio adesso... Allora, l'acido lattico è il prodotto naturalmente elaborato dal nostro organismo quando andiamo oltre una certa intensità d'esercizio. Nel giro di 30-45 minuti tutto l'acido lattico che abbiamo prodotto è smaltito. Quindi l'acido lattico non è un nemico, non c'entra in questo momento. E quindi l'intensità dell'esercizio non è una determinante rispetto al dolore. Il dolore nasce nel momento in cui noi sollecitiamo la muscolatura, soprattutto attraverso dei microtraumi ripetuti. Ed è un meccanismo fisiologico, perché c'è il microtrauma, c'è la distruzione della fibra, c'è la ricostruzione della fibra più forte, più grossa e più efficiente, che passa attraverso il dolore. Quindi quello che direi al nostro ascoltatore è: se lavora sulle gambe, lavorare soprattutto attraverso un lavoro di tipo concentrico piuttosto che isometrico, ma che non preveda il microtrauma tipico della corsa piuttosto che della discesa piuttosto che dei salti, ma faccia un lavoro di potenziamento come tale. Viceversa, sulle braccia sappia che anche con minore quantità di lavoro, proprio perché è muscolatura fasica, quindi una muscolatura che risponde molto rapidamente allo stimolo, può anche chiedere carichi molto molto inferiori. E poi cercheremo di farci suggerire da voi nel quotidiano dei piccoli trucchetti, ad esempio fare le scale con magari un po' in punta di piedi per tirare qualche muscoletto. Cioè, ci sono nel quotidiano delle occasioni in cui i nostri muscoli possono avere un po' uno stress benefico, metterli al lavoro. Intanto potete dirmelo voi anche da casa all'800 24 00 24. Invece il professor Tirelli, cari amiche, ci racconterà come tenere belle toniche sode le nostre gambe, le cosce che tendono a svuotarsi nonostante si faccia attività sportiva. Forse ci viene anche in aiuto una lettura della medicina cinese o no? Sì, come diceva il dottor Confalonieri, il problema è che bisogna lavorare questo dobbiamo nel senso che spesso la corsa viene vista come l'allenamento classico per gli arti inferiori, per le gambe, per le cosce. In realtà, da un punto di vista anche del tono muscolare, non è l'attività che rende e che dà più soddisfazione, proprio per una sua capacità, diciamo, di espressione di forza, ma non di aumento di volume delle fibre, come per esempio per gli arti inferiori e superiori, avviene anche con esercizi, diciamo, di breve intensità. Allora, a quel punto io suggerirei di lavorare con cosa? Con degli elementi che siano contro quelle che sono le probabilità del dolore dell'articolazione, per esempio gli elastici o l'acqua. Cioè, sono due elementi che si rapportano direttamente a noi. Quanto più noi lavoriamo, più io spingo, più l'elastico reagisce con la sua tensione, più io spingo, più l'acqua reagisce con la sua resistenza. Sente, quindi questi elastici possiamo usarli anche a casa? Sì, è facilissimo, perché io... Mi racconti per bene, prima dei mercati, abbiamo pochi minuti, ma una manciata di secondi, si comprano gli elastici in qualunque negozio di articoli sportivi o centro, diciamo, sportivo in genere. Comunque, se io sono seduto su una normale poltrona, su una sedia, io aggancio alla mia caviglia, una parte dell'estremità dell'elastico, la faccio passare sotto la sedia e la tengo con la mano, l'altra estremità. A quel punto la estensione, quindi il portare il piede verso l'alto, sicuramente mi andrà a tonificare principalmente il quadricipite. Poi cosa faccio? Ne faccio magari 3 serie da 10 ripetizioni. Quel lembo che avevo in mano lo aggancio invece alla maniglia della porta. Ok? Allora a quel punto io tirerò verso il basso la mia gamba, quindi farò lavorare principalmente gli antagonisti, quindi i flessori di gamba. Poi un'altra cosa, mi appoggio leggermente al tavolo, a una delle gambe del tavolo metto un lembo dell'elastico, mentre l'altro è sempre alla mia caviglia. A quel punto immagino di dare dei bei calcioni all'indietro, come fanno i cavalli, e lì tonificherò per esempio i glutei, nella estensione di coscia. Allora, gli elastici sono veramente degli amici, proprio perché ci permettono di lavorare con semplici esercizi, ma con assenza di problematiche articolari. Gli elastici, ma mi piace da morire questa cosa qua, adesso me li compro, anche con Laura Vanossi faremo delle sedute di elastici in redazione, prendiamo anche Roberto Scaltritti che se la ride perché in regia la parte tecnica, tutti di elastici, 800 24 00 24, li avete provati? Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piede. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Ma anche oltre alle gambe c'è di più, ci sono ad esempio le braccia. Noi oggi vogliamo proprio occuparci anche di loro. È importante che puntiamo a uno sviluppo armonico di braccia e di gambe. Le ragioni sono diverse. L'equilibrio porta eleganza e bellezza. In linea con noi abbiamo Andrea da Genova e subito dopo Stefano da Milano. 800 24 00 24. Vi chiedo anche i vostri consigli, i vostri trucchi per mantenere uno sviluppo armonico del vostro corpo, e vi stiamo chiedendo se com'è la vostra costituzione, se siete longilinei, brevilinei. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Siamo allora, qua. Io ho 48 anni, sono 1,73 m e peso 69 kg. Sì. Faccio attività sportiva da sempre, praticamente da sempre, e da sempre intendo proprio dalla gioventù, e ho fatto sia calcio che basket a livello agonistico, quindi ho fatto molti sport con il coinvolgimento degli arti inferiori. Ho sciato, faccio snowboard, vado in mountain bike e attualmente corro. Sì. Stefano, lei è sposato? Io sono sposato con una bambina. Ecco, no, perché qua viene fuori una figura da atleta perfetto, ma qual è il suo problema? Ci racconti. Problemi non ne ho, però quando ho sentito l'espressione tipo merlo, mi è venuto da sorridere, perché io ho fatto palestra ben pochissimo tempo nella mia vita, però ho la parte superiore del corpo che è decisamente più sviluppata. Meno. Più sviluppata. Le gambe, e anche per questo che ho subito parecchi infortuni durante la mia vita, diciamo così, è sempre a caviglia e ginocchi, mai alla parte ovviamente superiore. È anche vero che avendo fatto sport un po' traumatici come calcio e basket, aiuta. Certo. Professor Tirelli. No, probabilmente, questo è il caso di cui si parlava prima. Sono tutti i movimenti, il basket, il calcio, l'andare in mountain bike, che in realtà rafforzano quella che è la capacità resistente degli arti inferiori del corpo in genere, però non vanno a tonificare quella che è la parte che noi esteticamente andiamo a cercare di evidenziare, cioè il volume di ogni fibra muscolare o di fibre muscolari in genere. Io credo che forse il radioascoltatore non faccia in realtà quell'azione complementare di rinforzo a parte, quindi o macchine isotoniche, quindi quelle della palestra tradizionali, o i famosi elastici, o un nuoto però con una definizione, con un obiettivo proprio di rinforzo, di aumento del tono muscolare. Non so se è ancora in linea magari. Se è ancora in linea? Sì. Sì, Sì, sono in linea. Sono eccolo. In linea. Ecco, la domanda che volevo fare al radioascoltatore era: lei fa questo lavoro complementare o fa solo sport di carattere dinamico? Allora, nella fase, diciamo, autunnale e invernale, quindi quella di preparazione alla corsa e al ciclismo, alla mountain bike, faccio anche parecchio palestra, quindi comunque a livello isotonico e elastico, no, comunque pesi tradizionali, quindi tutti gli esercizi anche per le gambe, quindi per il quadricipite. Però io suggerirei questo. Aggiungiamo gli elastici, vede? Sì. Anche perché poi il fisico lavora sulla mente, quindi... non parlo per il radioascoltatore, ma in genere se io abituo l'organismo a usare gli elastici anche la mia mente diventa più elastica. Questo, due piccioni con una fava, sono riuscita a dirlo, di solito mi impapero. Andrea da Genova, buongiorno. Buongiorno, io sono Andrea, come diceva lei, ho 42 anni, invidio moltissimo l'ascoltatore di prima perché io ho pochissimo tempo per fare sport, sono partito come lui con una grande attitudine allo sport, ma adesso l'età, i figli e la moglie, diciamo che preferisco dedicare il tempo ai miei bimbi che stanno crescendo. E allora ho trovato due o tre così segreti che mi portano avanti, mi fanno stare molto bene e fisicamente continuo a piacermi tantissimo. Il buco della cintura è sempre quello, che secondo me è la cosa più importante. E il primo è il fatto di a ogni diminuzione, diciamo, di tempo dedicato allo sport, diminuire anche l'alimentazione. Quindi io sto molto attento a quello che mangio, cerco veramente di dedicarmi alla dieta mediterranea, quindi molta verdura, la pasta al giusto e la carne, però stando veramente attento ad alzarmi da tavola con un pochino di fame, come insegnavano i nostri nonni. E i dolci devo dire che cerco di limitarli. Poi da buon genovese, ahimè, anche la focaccia ho dovuto cominciare un po' ad abbassarne, così è quella veramente dura, perché la colazione media è certo cappuccino e focaccia, mentre per il suo tono muscolare come lo tiene? Per star bene, io non so se può servire o meno, ma io ho sempre diciamo in uso l'addominale. Io da quando mi ricordo, ormai penso che sia una cosa per me inconscia, io quando cammino, quando mi muovo, tengo sempre l'addominale in tiro, non so ora come dire, cioè lavoro moltissimo con l'addominale. Sì, quindi tiene la pancia in dentro praticamente, così? Ma in dentro però a livello muscolare. Cioè, perché mi rendo conto che col mio lavoro, io sono rappresentante, sono sempre molto in macchina, non ho e continuo a non avere problemi di schiena, credo per quello. Andrea, qua si vede che piace. Lì. Questo suo intervento è piaciuto perché vedo che il dottor Confalonieri annuisce e il professor Tirelli lo guarda, annuisce pure lui, quindi fa bene. Questo consiglio, meno male che ce l'ha dato il nostro ascoltatore, non ce l'avevate ancora dato voi. Come mai? Beh, non ve l'avevamo ancora dato eccessivo. Tanti anni che lo diamo. Però ha centrato due problemi fondamentali. Il primo... ha detto molto bene, nel momento in cui diminuisco l'attività fisica diminuisco l'alimentazione, cioè c'è poco da fare, è la base di tutto, cioè riduco i consumi, riduco l'introduzione di calorie, è matematica pura e l'ha espressa molto bene, tra l'altro l'ha espressa con un elogio della dieta mediterranea che soprattutto di questi tempi di diete molto molto molto discutibili ritengo veramente educativo, soprattutto che si va verso l'estate, quindi... uno si occupa di più di sé, certo, questa valorizzazione una di una dieta mediterranea con una giusta dose di carboidrati mi sembra perfetta. Il secondo punto che ha centrato è questa attenzione agli addominali o comunque quello che adesso si definisce il core training, cioè l'allenamento su tutto ciò che è il busto e che è fondamentale intanto per prevenire tutte le problematiche di dolore a livello di colonna, cui accennava anche il nostro ascoltatore, e soprattutto perché l'efficienza a livello centrale, quindi di addominali, lombari, psoas, glutei e quant'altro, è garanzia che utilizziamo anche tutta la muscolatura degli arti inferiori e degli arti superiori in modo ottimale. Quindi se uno ha poco tempo, come il nostro ascoltatore che giustamente si dedica alla famiglia, si concentri su questa zona chiave che è il core, proprio come dice la parola stessa, e cioè su addominali, lombari e la muscolatura che sta lì intorno. Sì, anche a livello di medicina cinese, poi magari avremo modo di parlarne, questa zona è proprio considerata il centro dell'energia, c'è cioè un punto anteriore sotto l'ombelico chiamato Tantien, di cui abbiamo parlato per l'energia sì, superficiale. C'è un punto posteriore chiamato Mingmen, sono la porta del cielo, diciamo, e l'essenza, e rappresentano proprio il baricentro non solo da un punto di vista posturale ma proprio della distribuzione dell'energia. Quindi la tonificazione addominale e il giusto rapporto tra lombare e addominali aumenta l'efficienza anche energetica lungo tutti i meridiani del nostro organismo. Quindi occhio all'addome anche quando camminiamo, quando facciamo i famosi 10.000 passi. E Luisa ci chiede, questi famosi 10.000 passi includono anche quelli fatti in casa o solo la camminata? No, una piccola nota, perché secondo me hanno toccato un punto fondamentale, cioè un elemento di sintesi, poi rispondo rapidamente, tra l'approccio occidentale tradizionale alla medicina cinese, che vengono sempre visti contrapposti, mentre magari per vie diverse arrivano alla stessa conclusione. Quindi questo lo trovo fondamentale. Lei sente poco essere benessere, perché noi di medicina cinese parliamo molto. Ma c'è molto una sintesi fra due scuole che spesso sono viste contrapposte. Sì, i 10.000 passi vanno anche bene quelli tutta in casa? Tutta la giornata. Uno si alza al mattino, si prende il suo apparecchietto e dai passi che fa per andare dal letto al bagno la mattina agli ultimi che fa dal bagno al letto la sera, tutto concorre a determinare i 10.000 passi. Fantastico. E mi raccomando, la pancia, l'addome, il punto, la porta, il tantiene, la porta del cielo, la porta del cielo. Buongiorno Francesco, che ci chiama da Bari. Buongiorno. Buongiorno, dalla provincia di Bari. Dalla provincia, eccolo. La ringrazio per avermi richiamato. Niente, io praticamente riguardo dei 10.000 passi, prima avevo un lavoro che mi consentiva di correre anche 4 volte a settimana, visto che sono un grande appassionato, o poi per le circostanze ho dovuto cambiare lavoro, ora faccio l'autista. E niente, ho pochissimo tempo da dedicare all'attività fisica e infatti ho preso una decina di chili e anche qualcosina in più. E sento le gambe sempre pesanti. Sì. E volevo qualche consiglio. Professor Tirelli. No, il consiglio è solo quello di cercare di forzarsi un attimo a livello mentale, cioè bisogna fare dei piccoli sacrifici. Se io so che la maggior parte della giornata la trascorro in auto, sul camion, io devo assolutamente organizzarmi o al mattino, prima di iniziare la giornata, o comunque quando arrivo a casa, cercare di per 3 volte alla settimana, potrebbe essere il lunedì, il mercoledì e il venerdì, piuttosto che il martedì, giovedì e sabato, quello di correre almeno 30 minuti. Insomma, non si scappa. No. Bisogna in qualche modo dedicarsi. Sergio da Fermo, buongiorno. Buongiorno, Sergio da Fermo. Sì, eccola. 59 anni, 1,65, peso forma. A 50 anni sono cominciati dei dolori al collo, fino al gomito cervicale, all'anca, e diciamo che era un'artrite così che si convive, sì. Non è che era fastidiosa, sì, però non è una buona compagnia. E che cosa è successo, Sergio? Allora ho cominciato a camminare, niente, risultati scarsi. Poi sono andato in palestra. Peggio. Noi pesi, ma così palestra libera. Poco risultati. Allora, che ha fatto? Poi sono andato all'fisiatra con i fili lì, due elettrici, poca roba. Alla fine sono andato a ballare. Bravo. Pochi risultati, scarsi. Anche lì. Sono andato a ballare e i problemi si sono risolti. Bravo Sergio, bisogna vedere anche con chi balla, avrà trovato una brava ballerina. Ma d'altra parte il ballo lo consigliano anche i nostri esperti come una magnifica, no, attività per mantenere in forma. Sergio è la prova, ha fatto, non ha visto niente, poi è sceso in campo, è sceso in balera e voilà. Beh, indubbiamente noi abbiamo parlato tante volte del ballo come di un'attività fisica ottimale, proprio perché è un'attività che migliora l'aspetto cardiovascolare, che muove il corpo nella sua globalità. Poi non trascurerei in questo caso un aspetto anche mentale, cioè sì, questo il rapporto, divertimento. Questo rapporto tra mente e corpo è un rapporto molto forte, spesso poco sottolineato dalla cultura occidentale, però ovviamente il fatto di stare meglio con se stessi perché si ballava, perché si stava bene, perché ci si piaceva di più, comporta anche una percezione completamente diversa delle piccole problematiche legate all'invecchiamento. E a proposito di gambe che ballano e che si muovono, a volte le gambe si muovono quando invece dovrebbero stare ferme. Succede ad esempio di notte. In linea con noi abbiamo il professor Fabrizio Stocchi, direttore del Centro dei Disturbi del Movimento dell'Istituto a Carattere Scientifico San Raffaele di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Andiamo a letto, siamo stanchi e le gambe, invece che dormire, si muovono. Sono senza riposo. Sì, infatti questo è proprio il termine che anche noi tecnicamente usiamo, si parla delle gambe senza riposo proprio in quelle situazioni nelle quali i soggetti vanno a letto per l'appunto e poi o vengono svegliati da questo fastidio che loro avvertono alle gambe, sensazione di calore, crampi, formicolii, che costringono appunto il soggetto che ne soffre a muovere le gambe. A volte devono anche alzarsi, camminare. E il camminare appunto fa sparire un po' il problema, sintomo. Certo. Risolve il sintomo e quindi il paziente può tornare a letto. Però queste gambe senza riposo hanno una loro logica, nel senso che possono essere nelle donne, molto frequente nelle donne, soprattutto nelle giovani donne, e indicano per esempio una carenza di ferro, quindi è abbastanza banale fare un esame del sangue e guardare se per caso c'è una carenza di ferro o un'anemia. Oppure possono essere cosiddette idiopatiche, cioè non dipendono da cause certe, possono avere una familiarità, quindi è più probabile che ne soffra qualcuno nella cui famiglia appunto ci sono dei soggetti che soffrono di gambe senza riposo, però la buona notizia è che comunque anche in questo caso si può curare bene questa situazione, che è la seconda causa di insonnia in assoluto nella popolazione. Colpisce il 10-15% dei soggetti, quindi è una cosa molto comune, e la cosa oltretutto che bisogna sapere è che può anche non presentarsi regolarmente tutte le notti, ma può presentarsi anche saltuariamente. È chiaro che se la situazione è saltuaria, capita una volta ogni tanto, si può soprassedere, non è necessario curare, ma se questa situazione invece si presenta con una certa frequenza, è ovvio che è bene fare prima di tutto degli accertamenti e poi eventualmente curarla, perché veramente le cure oggi possono cambiare la vita di queste persone. È quello che poi mi dicono quando queste persone tornano a controllo in ambulatorio, dicono proprio la mia vita è cambiata, perché finalmente tornano a dormire, finalmente non hanno più questo fastidio. Tra l'altro questi soggetti vengono facilmente individuati per esempio in aereo, nelle lunghe tratte, vedete persone che si alzano e cominciano a camminare avanti e dietro, oppure anche sul treno se il viaggio è particolarmente lungo. Ecco, questi sono quei soggetti appunto che soffrono di questa sintomatologia, di questa sindrome delle gambe senza riposo. Quindi, professor Stocchi, alle ascoltatrici in linea, giovani, attenzione, potrebbe tradire anche la carenza di ferro, fate un esame del sangue. Questa direi che è la comunicazione più semplice. Questa è la comunicazione più semplice. Se il problema persiste, come sempre, consultate il medico. Assolutamente. Grazie professor Stocchi per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a lei. Grazie. Noi siamo quasi in chiusura, ma abbiamo tempo per sentire Francesco che ci chiama da Torino all'800 24 0024. Francesco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno, sono un vostro ascoltatore molto fedele, perché io faccio un lavoro molto sedentario, guido automobili tutto il giorno, automobili bianche, e comunque vi ascolto sempre, ma ho un problema a un ginocchio, perché non riesco più ad andare a camminare in montagna quando sono di riposo, e il medico mi ha detto che ho un po' di artrosi, però io a casa ho una spalliera con degli elastici che faccio saltuariamente degli esercizi, ma vorrei sapere se con gli elastici, con un determinato esercizio, potrei avere dei giovamenti. Certo, professor Tirelli. Sinceramente la cosa da sapere è qual è la causa dell'artrosi, perché se io faccio lavorare su tutti i 90 gradi, per esempio il ginocchio, ma ho un problema femoro-rotulia, quindi della cartilagine tra la rotula e il femore, rischio di fare un danno facendola lavorare nei primi gradi. Quindi il suggerimento veloce, quello che darei all'ascoltatore, è prima una diagnosi medica. A quel punto, rispetto alla diagnosi del ginocchio, fare un lavoro differenziato sui diversi gradi, sul diverso range articolare. Andiamo a Carlo che ci chiama da Modena, se sta rapido. Carlo, buongiorno. Sì, velocissimo, sono molto contento per la possibilità di fare questa domanda, perché io ho il problema da tanti anni delle gambe magrissime, veramente non mi è rimasto quasi più muscolo, è un problema estetico sicuramente perché me ne vergogno, ma anche funzionale, visto che ho avuto tanti incidenti alle ginocchia, certo. Avrei bisogno dei muscoli. Avrebbe bisogno, Carlo, esatto. Certo, Carlo, avrebbe bisogno dei muscoli. Qua bisogna partire con un allenamento per Merli a settembre. Partire direi senz'altro con l'elettrostimolazione, così abbiamo, otteniamo rapidamente i risultati senza stimolare più di tanto le articolazioni, poi passare a un lavoro isometrico ed infine a un lavoro isotonico. Quindi elettrostimolazione, poi un lavoro per potenziare senza movimento e poi potenziarci attraverso il movimento. Movimento che può essere corsa. In palestra, no? In palestra. In palestra. Assolutamente, in assolutamente. Questo caso. Assolutamente, ci mandano in palestra. Grazie al professor Tirelli, al dottor Confalonieri, a Roberto Scaltritti, in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo domani, ricordate il nostro profilo Facebook, scriveteci e soprattutto scaricateci. A domani.